Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Gesù oggi ci parla dell'importanza di far conoscere il Vangelo alle persone. E questo brano è veramente adatto alla festa di oggi. Che festa è oggi? Oggi celebriamo la conversione di San Paolo. San Paolo è l'unico discepolo di Gesù del quale noi celebriamo non solo il giorno della morte, non solo il martirio, non solo la nascita, ma anche la conversione, perché la sua conversione è stata una conversione eclatante che ha cambiato e ha dato una direzione a tutta la Chiesa nascente. È bellissimo questo. San Paolo non ha mai conosciuto in vita Gesù perché Gesù è morto quando San Paolo era molto giovane e non ha avuto modo di incontrarlo nelle strade della Palestina. Però San Paolo ha avuto una rivelazione diretta da parte di Gesù e quindi è colui che ha scritto di più di tutti gli apostoli, pur non essendo della cerchia dei dodici, e inoltre è quello che aveva più mezzi, più strumenti, perché era più colto dell'epoca e quindi è riuscito a evangelizzare tante nazioni, tanto che è l'appellativo con cui è conosciuto è proprio Paolo, l'apostolo delle genti. E questo brano, vi dicevo, è molto adatto a parlare di San Paolo. Perché? Perché San Paolo veramente ha iniziato questa sua nuova vita con il battesimo e poi ha a sua volta invitato molte persone e spinto molte persone con il suo esempio e con la sua parola a trovare la conversione a loro volta. E in questo brano Gesù che cosa dice? Dice: andate in tutto il mondo e evangelizzate, portate il Vangelo ad ogni creatura. Questo è fondamentale. Cioè Gesù dice: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Quindi non solo il mondo in genere è importante, ma ogni persona è importante. Ogni persona che io incontro è una persona che è fatta per la vita eterna. Che bello questo, una persona con cui condividerò il paradiso per sempre. Quindi io mi devo interessare del mio fratello, della mia sorella. Mi appartengono, apparteniamo alla stessa famiglia. E quindi l'attenzione ad ogni persona che incrocio sul cammino, sia che è simpatica, sia che è antipatica, sia che è intelligente, sia che lo è di meno, sia che è carina, sia che mi attrae, sia che mi disgusta. Ogni persona è un dono e ogni persona attraverso la conoscenza che io faccio deve avere un incontro con Dio. Perché? Perché io sono chiamata a portare l'amore di Dio. E poi è interessante qui, dice, questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti. E se berranno qualche veleno non recherà loro danno e imporranno le mani ai malati e questi guariranno. E noi, sentendo queste parole, diciamo: ma quando mai, Signore? Oggi noi non vediamo tutto questo, ma invece lo vediamo perché è vero che anche noi nel nome di Gesù scacciamo demoni, è vero. La nostra presenza, se noi siamo veramente uniti a Dio, la nostra presenza in qualunque posto scaccerà i demoni. In che senso? Le persone desidereranno diventare migliori perché proprio perché sono a contatto con noi. Quante volte mi è capitato quando le persone sanno che io sono consacrata, se magari stanno facendo dei discorsi un po' spinti oppure se stanno dicendo qualche parolaccia, cercano di correggersi, di ah, mi scusi sorella, oppure mi scusi, insomma, cercano di darsi un po' un contegno perché appunto sanno che stanno alla presenza di una persona che crede in Dio e che è unita a Dio. Quindi vedete come è vero, come in un certo senso la presenza di chi è unita a Dio scaccia i demoni. Poi parleranno lingue nuove. Qual è la lingua nuova che tutti comprendono? Tutti, credenti, non credenti, tutti appartenenti a qualunque nazione. La lingua universale dell'amore. Questa è una lingua che capiscono tutti, quindi anche quando non ho parole sufficienti per esprimere il mio amore, posso sempre farlo con i fatti, con le attenzioni, con il sorriso, con l'atteggiamento, con il mio modo di relazionarmi, di sorridere, di guardare, di toccare. Ecco, e quindi anche noi parleremo lingue nuove, la lingua dell'amore. Poi prenderemo in mano i serpenti e che sono i serpenti? I serpenti, il serpente è il simbolo della tentazione. Perché è il simbolo della tentazione? Perché il serpente striscia, la tentazione che fa è subdola, non te ne accorgi, cerca di incastrarti. Allora anche noi prenderemo in mano i serpenti, cioè ci accorgeremo delle tentazioni e le vinceremo. E poi, se berremo degli veleni, non ci recheranno danno. Quali sono i veleni che ci beviamo ogni giorno? Sono i veleni delle bugie, i veleni della maleducazione, i veleni delle calunnie, i veleni delle paure che ci incutono gli altri. Ecco, tutti questi veleni noi li respingeremo con la grazia del Signore. E poi, imporranno le mani ai malati, questi guariranno. Che cosa vuol dire questo? Che quante persone che incontriamo sono malate, malate d'amore, malate perché hanno bisogno di una parola di conforto, malate perché hanno tanta solitudine, sperimentano tanta delusione, tanta stanchezza. Allora ecco che noi oggi vogliamo impegnarci con la nostra presenza a parlare lingue nuove, a scacciare i demoni e a guarire i malati che incontriamo sul nostro cammino. E per concludere vorrei citarvi questo aforisma: forse tu sei l'unico Vangelo che la gente mai leggerà. Buona giornata.